una generazione che, come i miei genitori, ha combattuto il nazifascismo e il totalitarismo per costruire un'Europa di pace, un mondo libero ed equo. Per 80 anni abbiamo cercato di contrastare ogni attacco alla democrazia. Abbiamo visto tante guerre in Medio Oriente, in Africa, in Asia, nell'ex Jugoslavia. Ma i cittadini europei si sono sempre battuti democraticamente per la pace, costruendo l'Unione Europea sugli ideali nati a Ventotene, ispirati da coraggiosi e orgogliosi antifascisti. Eppure nel 2022 abbiamo ancora un dittatore che rappresenta la faccia peggiore del totalitarismo e quindi del fascismo. Un criminale che sta portando sull'orlo di una nuova, ben più tragica guerra mondiale. Il mio pensiero non può che andare alle donne di tutti e due i fronti, alle ucraine, madri, figlie e giovani inermi, che in queste ore subiscono l'invasione di un esercito composto per la maggior parte da ragazzi che probabilmente non sanno neppure dove stanno andando, comandati da generali senza scrupolo e senza coscienza. Le mamme russe che vedono i figli partire per una guerra tra fratelli. Sono convinta che le armi che stiamo inviando non possono essere un aiuto alla costruzione della pace. Nessuna bandiera può sostituire quella della pace. Lavorare per la pace significa avere il coraggio del disarmo e della mediazione. Condivido l'appello della Rete per la Pace e il disarmo. Dall'Italia e dall'Europa devono arrivare soluzioni politiche per non aiuti militari. Cari compagni, non possiamo appellarci all'articolo 11 della Costituzione, che recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di difesa della libertà di altri popoli e come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Quando poi siamo noi, è l'Italia che fornisce le armi, che fabbrichiamo specialmente le bombe a grappolo che ci siamo inventati noi italiani. È stata opera di donne, uomini che amavano la pace e si sono trovati costretti a prendere le armi. Fu un fenomeno collettivo di ragazzi e ragazze che fecero una scelta, ma avremmo voluto che proprio oggi un popolo si vedesse costretto a fare la stessa scelta. Noi eravamo una generazione di giovani che trovavano la guida nelle donne e negli uomini che avevano praticato una lunga resistenza antifascista durante il ventennio e che avevano organizzato l'antifascismo denunciando totalitarismi e dittature, nelle carceri, nei confini, in esilio, dove il popolo ha trovato le radici del proprio essere nella storia. Tutto questo perché le nuove generazioni potessero godere della libertà e della pace.